11.06, bentornati in onda su Radio Blackout. Prosegue la mattinata informativa di questo martedì 19 maggio. Come ogni martedì torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo. E oggi qui ai microfoni Francesca. E un saluto a tutti e tutte anche da Eddie. Vi terremo compagnia fino alle 12.45 e ricordiamo nel frattempo i contatti 011 2495 669 per chiamarci, 346 6673 263 per scriverci e per il servizio Cisti Viaggiare Informati. E questa mattina segnalavano alcuni problemi con il sito e di conseguenza anche con lo streaming. Adesso ci sembra che stia funzionando tutto correttamente, ma magari in caso invece di problemi segnalatecelo. Noi vi lasciamo ancora a un pezzo musicale, poi andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi. Nel frattempo arriva un messaggio che chiede: ma qualche buona notizia non c'è? Che giornata nera. E allora cerchiamo di risollevarla un po' con delle musiche che ci diano delle musiche. Say you got a friend, well you can bring her too. Cruising with my crew. Come inside my house, ride, you gotta lose the shoes. Cruising with my crew. Rhymes on my mind, hungry as a fool. It in the breeze when I'm leaving overseas, and it's 93 degrees speaking brown peopleese, but I gotta ease up out of Honolulu for a few to keep it popping like a Honolulu shooting the scene. But never greasy with the people on the island I see. I see the stars falling into the sea. Pull her closer to your bro, she told me never let her go until the moment reached the ceiling. That's the feeling I need. Yeah, breathing in, and they came to get away, but we came to get it in. When they call it, it's the day, that's when the day for us begin. The people turning up their stereo and playing me again, once again. Breathing in, and they came to get away, but we came to get it in. When they call it, it's the day, that's when the day for us begin. The people turning up their stereo, they playing me again, once again. My cup, selector with the tunes, cruising with my cruiser, with my cruiser. Oh, you say you got a friend, well you can bring her too. Cruising with my crew. Got my food land card, man, I'm buying me some food. Cruising with my crew. Fucking with the kind, that's what I'ma do. And when I'm cruising with my crew, I'm trying to get some eats. We riding on the two, I'm bumping cyber beats. Born in Killer, California, bra, son of a beach. An arm's reach from the motherland over the sea. I'm calling Aaron and Jake, what's up to Carol and Case? Some people call it the eight, but it's a sovereign state. I heard the water's the place. They try to cancel our performance, but the scholars keep a pouring, believe. Whoa, I'm breathing in, and they came to get away, but we came to get it in. When they call it, it's the day, that's when the day for us begin. The people turning up, they stereo, they playing me again, once again. Breathing in, and they came to get away, but we came to get it in. When they call it, it's the day, that's when the day for us begin. The people turning up, they stereo, they playing us again, once again. My cup, selector with the tunes, cruising with my crew. Oh, you say you got a friend, well you can bring her too. Cruising with my crew. Come inside my house, bro, you gotta lose the shoes. Cruising with my crew. Driving with my feet, yabba dabba doo. schiaffi tutti schiena contro schiena, pronti per lo scontro al centro dell'arena, pronti per la sfida sempre fino in fondo, occhi aperti e pugni chiusi contro il mondo, pollici e dalvi tutti schiena contro schiena, pronti per lo scontro al centro dell'arena, pronti per la sfida sempre fino in fondo, occhi aperti e pugni chiusi. Crescendo sono diventato abile a parare colpi anche se vulnerabile, a non credere alle favole, a riempire pagine, a dare più importanza alla sostanza che all'immagine. So che c'è una corda per aggrapparsi su ogni voragine. Wow, Lito, insisto, non capiscono, la testa resta vera e le mie nocche non si indeboliscono. Christopher, aprire porte chiuse a chiave, noi le buttiamo giù con i calci come Christopher. Christopher, mando baci come Giada, chi si mostra un brada poi mi sputtana in strada. Se la vita mi stringe alle corde, io chiudo i miei pugni e li stringo più forte, né meno la morte può mettere fine al flusso d'energia che collega me con l'ipom. Oh no, io non gioco a fare il nero, solo Dio sa quanto sono vero, quanto ci sclero e ci credo, quanto di nero ci impiego, ma son pronto ad andare avanti anche se il vento soffia contro, con i pugni chiusi fino a quando sarò morto, con albi dubbi schiena contro il mondo. Unite dal bidupi schiena contro schiena, pronti per lo scontro al centro dell'arena, pronti per la sfida sempre fino in fondo, occhi aperti e pugni chiusi contro il mondo. Unite dal bidupi schiena contro schiena, pronti per lo scontro al centro dell'arena, pronti per la sfida sempre fino in fondo, occhi aperti e pugni chiusi. A pugni chiusi, dritto lungo il mio cammino, mentre abbraccio questa vita, stringo forte la mia biro, non aspetto un altro giro, se ho sudato ciò che vivo, sfidato il mio destino e vivo a fondo ogni respiro, stimo, ammiro le persone in cui confido, mentre coltivo i miei sogni, ne parlo con gli occhi di un bambino, guardo il punto di arrivo a cui aspiro, sospiro ogni volta che lo sento più vicino, Alvi, resto lucido tra i folli, in storia di tutti i giorni come Riccardo Fogli, ma qui rimani solo se ti sforzi e vivi cercando la gloria come Umberto Tozzi, resto lontano da certi stupidi discorsi e preferisco negare che stare a galla con voi stronzi, non credo nei racconti che arrivano distorti, vivo per dei valori o sensazioni troppo forti, brividi, quando individui che vivono come già morti, perché brividi stimoli, stringo più forte i pugni per non andare a fondo, con polito schiena contro schiena. Schiena contro il mondo, unite dal bidupi schiena contro schiena, pronti per lo scontro al centro dell'arena, pronti per la sfida sempre fino in fondo, occhi aperti e pugni chiusi contro il mondo, unite dal bidupi schiena contro schiena, pronti per lo scontro al centro dell'arena, pronti per la sfida sempre fino in fondo, occhi aperti e pugni chiusi. Allora 11:15, andiamo a vedere più nel dettaglio gli argomenti che tratteremo nella puntata di quest'oggi. Daremo spazio prevalentemente alla questione della buona scuola che domani approda in Parlamento per le votazioni. Insomma, durante l'anno abbiamo seguito le mobilitazioni studentesche fino ad arrivare al boicottaggio delle prove Invalsi della scorsa settimana. Negli ultimi giorni abbiamo visto un'attivazione che insomma abbastanza inedita rispetto al panorama degli ultimi anni anche da parte degli insegnanti, e proprio ieri c'è stato anche qui a Torino un corteo con diverse centinaia appunto di insegnanti delle scuole, un corteo prevalentemente sindacale ma che comunque appunto segna un po' una rottura con invece la insomma quella che è stata un po' un guardare passivo fino ad ora rispetto ai provvedimenti del governo Renzi. Quindi andremo a fare un po' di rassegna stampa, a leggere un po' di articoli che in questi giorni hanno commentato appunto la buona scuola, andando a criticare proprio quello che è il contenuto di questo decreto legge. Poi faremo un collegamento con Pino dei Cobas, che ci racconterà un po' della giornata di oggi, anche quali sono le prossime iniziative, indipendentemente insomma anche da quella che sarà la votazione di domani. È già stato proposto un blocco degli scrutini per la fine dell'anno, quindi insomma ci faremo dire meglio e appunto dedicheremo buona parte della puntata un po' a questo tema, vista anche la votazione imminente. Poi andremo avanti informandoci un po' su che cosa succede nelle altre città, nello specifico abbiamo visto dopo gli aggiornamenti da Roma, ci sono anche notizie da Bologna, delle provocazioni nei confronti delle, diciamo, di occupazioni abitative sul territorio, abbiamo visto che proprio diciamo, nell'isteria pre e post primo maggio si sono, abbiamo assistito a nuovi attacchi nei confronti delle esperienze di lotta autogestione e auto-organizzazione, andremo a sentire però la risposta pronta che non è mancata da arrivare degli occupanti e di chi lotta tutti i giorni per il diritto alla casa. E questo è più o meno quanto, come sempre i microfoni di Radio Blackout sono ovviamente aperti per aggiornamento da Torino e dintorni, ma non solo, noi vi lasciamo a una breve pausa musicale. È arrivato un messaggio al 346-6673-263, credo che si riferisca all'info perché parla di un articolo riguardo al balloon Scalo Vanchiglia sulla Busiarda di stamattina e il messaggio dice, diciamo, contro le logiche del controllo dei quartieri, viva il balloon libero, non possiamo, diamo voce diciamo a questa istanza perché i microfoni rimangono sempre aperti e non possiamo che essere d'accordo. E allora una breve pausa musicale poi iniziamo con la puntata. Meglio che stare a casa, capisci? Per il 9-6 è ancora più avanti. 11:23 nella mattinata informativa di Radio Blackout, le libere frequenze sui 105.250. E allora andiamo avanti con Parole Ribelli, come ogni martedì mattina vi accompagna. Come dicevamo in apertura di puntata, ci occuperemo appunto ora di buona scuola, non solo diciamo perché domani poi approderà in Parlamento quella che appunto è la riforma dell'istruzione secondo il governo Renzi, ma perché appunto stiamo vedendo una reazione che, per quanto ancora un po' schiacciata magari su delle dinamiche sindacali o su delle rivendicazioni un po' vertenziali, comunque sta dando assolutamente segni di vitalità in una scuola che non esprimeva una coesione di intenti tale da un bel po' ormai. E allora andiamo da un po' a raccontarvi nella rassegna stampa un articolo apparso sul Manifesto, La resistenza necessaria della scuola, un'intervista a Valeria Pinto, autrice di cui abbiamo diciamo già trattato, che nello specifico si occupa di valutazione e che legge il dispositivo della formazione attuale, diciamo la scuola, la formazione post Gelmini, come uno strumento per valutare e punire. E allora su valutare e punire appunto c'eravamo già confrontati e è proprio la Pinto a dirci che la buona scuola si inserisce perfettamente in questo solco, un solco che di fatto concepisce l'indicazione come indicizzabile. Le prove invalsi, per esempio, dice la Pinto, e i test PISA, tutti gli altri dispositivi della valutazione, rispondono a una visione politica che si realizza attraverso indicatori e non con l'interpretazione. Infatti, diciamo, abbiamo visto anche, passateci un po' la forzatura, però, venendo meno il campo di interpretabilità e subentrando l'incontrovertibilità dei fatti, ecco che si autorizza e si legittima un intervento su il dissenso sempre più aspro, e l'abbiamo visto come del resto si sta verificando. Abbiamo visto anche come la stessa buona scuola è nata sotto la stella della consultazione, quella che è il nuovo paradigma comunicativo del governo Renzi, quello della scuola, quello della tendere la mano nel momento per avere il necessario supporto dalla popolazione. Bene, il consenso nei confronti di questa riforma è veramente pari a zero. Tutta Italia finora è scesa in piazza. Abbiamo visto anche un'ottima risposta, ci raccontano soprattutto i compagni dei collettivi degli studenti medi, rispetto ai test invalsi, e non solo, anche non solo nella formazione liceale, ma anche o secondaria, ma anche rispetto all'università. Abbiamo visto maestri e insegnanti unirsi insieme a genitori per non mandare a scuola i bimbi in quella giornata. Quindi sicuramente appunto c'è anche una volontà da parte di chi si sente la responsabilità della formazione dei propri figli e dei propri giovani di non volerli sottoporre a un processo standardizzato e impoverente rispetto alle capacità stesse degli studenti, perché sappiamo benissimo che non è una crocetta che determina le capacità di ragionamento di un ragazzo o una ragazza. E appunto vanno avanti le domande sulla funzione che lei identifica della riforma Gelmini per valutare e punire studenti e docenti. La scuola rappresenta uno degli ambiti politicamente decisivi, perché nelle sue aule si formano le soggettività che votano, consumano e producono. Agire oggi su di essa significa portare un attacco contro una zona ultrasensibile della società che ha opposto una resistenza al processo neoliberale in corso. Se passerà la riforma, questo processo si completerà in maniera pericolosa. E allora andiamo verso l'ultima domanda, che su questa risposta abbiamo assolutamente, non possiamo fare altro che essere d'accordo, e infatti qui la nostra attenzione nei confronti dei processi di resistenza al compimento di questa finanziarizzazione e compimento della scuola neoliberale. L'ultima domanda sulla buona università ci riguarda anche direttamente, soprattutto non solo perché siamo universitari, diciamo, ma anche perché la nostra, dall'idea che ci siamo fatti in questo per quel che abbiamo potuto leggere finora. Ricordiamo che come è accaduto con Buona Scuola, Job Act, vari ed eventuali, questa, c'è sempre il clamore mediatico prima dell'annuncio della riforma, prima dell'effettivo progetto politico, e anche questa volta, come il Job Act, che erano 20 pagine in croce prima e sono state strombazzate per un anno e mezzo, diciamo, prima che effettivamente diventasse un qualcosa di politico, e anche questa volta il governo Renzi punta su una cornice mediatica e quindi pubblica 30 pagine sulla buona università, lasciando prefigurare tutta, ovviamente, quello che sarà l'esito, e non vogliamo di certo invocare un'efficienza maggiore di questo governo, però è importante anche sottolineare che c'è appunto questa strategia di consenso, che non è neanche così inefficace, anzi. Nei confronti di questi provvedimenti, di questa Italia che cambia verso, che appunto strombazza queste grandi provvedimenti, poi di fatto non fa altro che sancire e accelerare processi che sono già in corso. Per esempio la buona università, quel poco che ci dice è che farà uscire definitivamente l'università dalla pubblica amministrazione, e che quella parte, diciamo, di corpo intermedio tra studenti e governance universitaria, docenti, che sono tutti ricercatori, gli assegnisti, è stato spazzato via con un po' di spugna grazie al Job Act, perché adesso ricadranno tutti sotto, diciamo, l'organizzazione del lavoro del Job Act, quindi apprendistati, contratti a termine, tutta una serie di cose di cui abbiamo ampiamente parlato. E allora quella che era appunto questo corpo intermedio, che era anche l'ultima resistenza un po' di quell'università che in suo nome mobilitò nel 2008 e nel 2010 varie volte, nel giro di pochissimo questo corpo intermedio è stato spazzato via con un colpo di spugna, e allora forse è il caso di dire che secondo noi buona scuola e buona università vanno a braccetto, e a livello di intervento sulle soggettività, come proprio la Pinto diceva, come anche Valeria Pinto diceva, forse la buona università prefigura un cambiamento e un intervento sulle soggettività ancora più nel profondo. E allora questo è un primo contributo che ci sembrava importante dare. L'articolo lo potete trovare sul Manifesto online, è uscito alcuni giorni fa col titolo La resistenza necessaria della scuola, e appunto ci sembrava interessante anche questo collegamento tra il boicottaggio delle prove invalse e la buona scuola di Renzi, proprio evidenziare come una serie di provvedimenti negli anni stiano in perfetta continuità l'uno con l'altro, appunto in un processo di aziendalizzazione progressiva della scuole, che quindi, insomma, anche la buona scuola di Renzi non casca così dal nulla, ma si inserisce appunto in questo percorso che dura ormai da anni. E quindi niente, su questo facciamo una breve pausa e tra poco andremo invece a farci raccontare della mobilitazione che c'è stata ieri a Torino e soprattutto di quali saranno i prossimi appuntamenti. FTC 950-99. Vedo lo spettro del rispetto, l'hanno ucciso, adesso cerca il mandante. Radar per la strada, l'assassino è latitante. Fra le tante mandre, ognuno è comandante. Il più grande maschera le vesti da infante. Da tante fatti le dovute vasche a nuoto. Impara dai racconti dei vecchi seduti attorno al fuoco. Si tira avanti, Basley, sto vivendo fasi, trattenendo sfasi, sopportando scrausi con la smania degli applausi. Ma si stancheranno se li nausei, resi reduci dai metodi più che dai casi. Sono passati sugli insegnamenti dei sapienti, senti sentimenti spenti e concorrenti deludenti se non riempi le inopportune lacune, nonostante la cure è facile perdere il lume. Piume quel che siete dinanzi al soffio dei saggi, andate pure alle feste vestiti come a fare i gaggi. Karate Kid, wannabe, Daniel San, cadi ai collaudi se non caghi, mister Miyagi. Volti nuovi, intenti a tirar fuori ciò di cui disponi, ma più ti esponi e più ti rompono i coglioni. Presunzione al pieno, umiltà zero, un totti crew e b-boy. mangiati a colazione da chi ne sa più di voi. Per chi fa brutto col fantasma della soap opera, soap opera, Lord B, street opera, Lord B. Questa è una per i veri kings, l'opera di strada per chi merita i suoi crediti. Per chi non rispetta, per chi non l'accetta, per chi non ne sa e si crede in vette e vendetta. Lord B, questa è una per i veri kings, l'opera di strada per chi merita i suoi crediti. Per chi non rispetta, per chi non l'accetta, per chi non ne sa e si crede in vette e vendetta. Qualunquisti, cronisti, fra gli arrivisti già visti, fra gli agonisti malvisti ai suoi rischi, ma soprattutto è impossibile a dirsi come essere realisti e capirsi senza tradirsi in questi abissi. Ovvio non fai amicizia con tutti i piragni di st'oceano, la furbizia sta a tappare le crepe che si creano, ogni colpa si esterna, ogni faida è conferma, regole di merda risolte a cartone sberla. Vogliono far la guerra, io sono sulla terraferma, piango col soldato Ryan, marito di ogni caserma. 20 anni e mi ritrovo con il piatto pronto in tavola, potevo essere sul fronte se nascevo 70 anni fa. Smettiamola, non è lo sbarco in Normandia, molla l'artiglieria, intanto spacco in Lombardia. Lì col Messner scalo le vette, brucio gli anticristi delle troppe finte sette. Per rifarsi non è mai tardi, ma alcuni fondono in testa oppure esplodono come petardi. Altri, troppo bastardi, e mi è difficile amarli, e intanto perdo stima nei loro riguardi. Per la strada terroristi e sommosse, spray attivisti contro divisi a strisce rosse. Rabbia da espellere, accelere, accelere quest'impeto, la rivolta sotterranea alla quale incito. Non è che recito, è che medito su quel che è lecito, sollecito, metrico all'esito. Metti a fuoco quel che predico e quello che dico, perché adesso l'invito a prendere la mira sul vero nemico. Lord Queen, questa è una per i veri kings, l'opera di strada per chi merita i suoi crediti. Per chi non rispetta, per chi non l'accetta, per chi non ne sa e si crede in vette e vendetta. Lord Queen, questa è una per i veri kings, l'opera di strada per chi merita i suoi crediti. Per chi non rispetta, per chi non l'accetta, per chi non ne sa e si crede in vette e vendetta. Allora, 11:35, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli, torniamo subito in diretta, proseguiamo questo approfondimento dedicato alla buona scuola. Adesso, come vi avevamo annunciato prima, dovremmo avere a questi microfoni Pino Dei Cobas. Ciao! Ciao, ciao, ciao a tutti! Allora, con te vorremmo innanzitutto un po' partire dal corteo che c'è stato ieri pomeriggio a Torino, quello che era stato convocato come un presidio unitario in Piazza Castello nel tardo pomeriggio, si è poi trasformato in un corteo per le vie del centro che ha raggiunto la sede della RAI. Un corteo, direi, insomma, abbastanza partecipato, considerato anche il periodo un po' atipico e tendenzialmente freddo per le mobilitazioni, ma che soprattutto mi sembra segni finalmente anche un'attivazione da parte del corpo degli insegnanti. Ieri, insomma, erano presenti tutte le sigle sindacali, sia da quelle confederali che, insomma, stanno continuando a portare avanti un'opposizione piuttosto tiepida rispetto alle insomma ai provvedimenti del governo Renzi, ma poi anche tanti appunto sindacati di base. Quindi intanto ti lascerei la parola appunto sulla giornata di ieri. Ma ieri è stata una bellissima giornata, come dicevi tu, non ce l'aspettavamo neanche noi una partecipazione così attiva, molte scuole in piazza nonostante la giornata, il pomeriggio, molte scuole erano in riunione e così via. Comunque, dopo la grandissima manifestazione del 5 maggio, dello sciopero del 5 maggio, abbiamo ripetuto a Torino una buona presenza, diciamo, di lavoratori della scuola, studenti, famiglie. Noi siamo, come Cobas, rispetto ad alcuni sindacati confederali abbiamo le parole d'ordine chiarissime, abbiamo già indetto uno sciopero degli scrutini che, ripetiamo, è legittimo. Andiamo avanti perché la nostra parola d'ordine è il stralcio dal disegno di legge di un decreto per dimissione in ruolo di tutti i precari e il ritiro immediato del disegno di legge. Su questo si giocherà molto in questi ultimi giorni. Il disegno di legge è già passato alla Camera, molti sindacati, alcuni sindacati, alcune sigle confederali stanno già nicchiando, stanno già pensando che con qualche emendamento possa essere, diciamo, accettato il disegno di legge. Noi siamo assolutamente contrari su tutta la linea, continueremo, anche perché abbiamo notato, siamo stato anche ieri, diciamo, nella partecipazione attiva e viva dei lavoratori della scuola, che la base è scontenta, tutta la base è scontenta, quindi anche gli iscritti a quei sindacati che vorranno magari trattare e accettare qualche emendamento sono con noi. Quando il nostro compagno ha annunciato lo sciopero di scrutini c'è stato un applauso di tutta la piazza, quindi noi andremo avanti fino alla fine, faremo lo sciopero, valuteremo, perché lo sciopero si articolerà su 2 giorni, valuteremo se poi è possibile forzare chiaramente la legge anti-sciopero, la 146, che non ci permette di fare il vero blocco degli scrutini. Se c'è la categoria che risponde, andremo anche avanti. Quindi, insomma, in attesa di quello che sarà poi l'esito della votazione di domani, ci sono comunque già degli appuntamenti in vista, quindi comunque la partita non si chiuderà con la votazione, ma c'è un'intenzione appunto di continuare a mobilitarsi, anche insomma a mettere in luce tutta quella che è stata la questione delle consultazioni farsa del governo Renzi, che di fatto ha aperto degli spazi di mediazione totalmente fasulli, degli spazi di confronto inesistenti, che ha proseguito dritto per la sua strada, ignorando completamente sia le voci degli studenti che quelle degli insegnanti di questi ultimi giorni. Ma guarda, se devo dire la verità, gli emendamenti che ci sono stati peggiorativi rispetto al testo originale, quindi come dicevi tu, ci ha convocato i sindacati, ha convocato anche i COPAS per la prima volta, ha convocato le associazioni studentesche, dei genitori, non ha tenuto assolutamente conto di quello che i lavoratori, chi lavora e chi vive nella scuola ha detto, non ha assolutamente tenuto conto, ha cercato, però sta cercando di dividere il fronte, non quello sindacale, perché quello per noi è il minimo, cioè, voglio dire, non è importantissimo, sta cercando di dividere il fronte mettendo l'uno contro gli altri, per esempio i genitori, gli studenti contro gli insegnanti, sta cercando di far capire all'opinione pubblica che la nostra è una lotta corporativa, una lotta di difesa dei nostri privilegi. Questa è la grande battaglia che dobbiamo affrontare, dobbiamo far capire a tutti come insegnanti, ma ripeto, siamo insegnanti ma siamo anche genitori, quindi facciamo parte a tutti gli effetti come protagonisti all'interno della scuola. Dobbiamo cercare di far capire a tutti, anche se i mezzi di comunicazione, come ben sapete, sono schierati dalla parte di Renzi, sia i telegiornali che i giornali, dobbiamo far capire a tutti, appunto dicevo prima, che la lotta che stiamo portando avanti nella scuola non è per difendere i nostri diritti, ma è per migliorare la scuola. Noi siamo per migliorare la scuola, ma per migliorare la scuola c'è bisogno di un investimento importante per la scuola. Le scuole stanno cadendo a pezzi. Altro che buona scuola, le scuole hanno bisogno di investimenti sostanziali, voglio dire, non è un problema soltanto di rinnovo del contratto, il rinnovo del contratto, io sono molto critico in questo momento a pensare a un rinnovo contrattuale, perché in questa situazione politica particolare un rinnovo contrattuale significherebbe anche perdere quei pochi diritti che abbiamo. A me interessa di più lavorare e ottenere per la scuola dei finanziamenti pubblici, non privati come dice Renzi, pubblici, perché i finanziamenti all'interno del disegno di legge sono previsti, ma sono previsti da soggetti privati, e i soggetti privati sappiamo benissimo che se dovessero investirebbero in delle scuole di serie A, quindi si allargherebbe ancora di più la forbice tra scuole di serie A e scuole di serie B, le scuole che di cui hanno bisogno di più i finanziamenti saranno sempre meno finanziate e avranno delle grandissime difficoltà. Quindi noi andremo avanti, ripeto, in questi giorni peraltro a livello nazionale ci sono previste sia oggi che domani delle mobilitazioni sia a Roma che in moltissime altre città, andiamo avanti, abbiamo anche lanciato come una manifestazione una proposta di manifestazione nazionale il 7 giugno che coinvolga appunto tutti i soggetti. L'abbiamo lanciato di domenica perché ci sembrava importante che partecipassero a questa manifestazione anche i genitori, gli allievi e tutte le associazioni. E vedremo la risposta degli altri sindacati. Diciamo che la situazione è un po' ingarbugliata in questo momento, nel senso che, come avete sentito anche voi ieri, i leader sindacali, diciamo, provinciali si sono dichiarati contro il DL, alcuni si sono spinti anche in avanti dicendo che saranno pronti a bloccare gli scrutini. Vedremo, speriamo che il fronte rimanga compatto, ma l'importante è che, non è, che rimanga compatto, diciamo, la mobilitazione all'interno delle scuole, che quella è la cosa più significativa. Beh sì, sicuramente l'auspicio è che si riesca, insomma, a portare un'opposizione complessiva non solo a questo DDL ma al governo Renzi in generale. In questo senso mi sembra che l'augurio per i prossimi mesi è che possa esserci anche una maggiore coordinazione tra le lotte degli studenti e quelle degli insegnanti di queste ultime settimane, che è una cosa che abbiamo già visto durante i cicli passati di mobilitazione, che invece mi sembra che insomma, con l'esaurirsi del movimento contro la Gelmini fosse un po' venuto a mancare. Quindi appunto credo appunto che l'auspicio debba essere quello di mettere un po' insieme le voci e portare un'opposizione complessiva a questo decreto di legge e al governo Renzi nel suo complesso. Guarda, per noi è fondamentale. Noi non vinciamo se la lotta viene portata avanti soltanto dai lavoratori della scuola. Su questo terreno è sicuro che perderemo. Se non c'è l'unità tra lavoratori della scuola, studenti e genitori, per quanto riguarda le scuole materne, elementari e così via, questa battaglia è persa in partenza. È persa in partenza perché, come dicevo prima, Renzi sta lavorando su questo aspetto. Pensa che la lotta portata avanti dagli insegnanti sia una lotta corporativa, sia una lotta per difendere i nostri privilegi e così via. Non è assolutamente vero. Per questo auspichiamo che ci sia anche una ripresa della mobilitazione da parte degli studenti, anche se è un periodo, mi rendo conto che è un periodo un po' particolare, siamo alla chiusura delle scuole e così via, però è una battaglia che bisogna vincere, e se la vinceremo la vinceremo assieme, altrimenti, al di là delle lotte che potremmo fare soltanto come lavoratori della scuola, non ci saranno grosse vittorie, ci sarà qualche emendamento che non cambia il progetto di fondo della scuola che vuole Renzi. Ripeto, è una battaglia politica, non è una battaglia sindacale, noi stiamo portando avanti una battaglia politica, come il Job Act, come diciamo che se uno legge il Job Act e legge questa riforma della scuola trova tante cose in comune, quindi la battaglia è politica, una battaglia di civiltà. Senza una scuola pubblica gratuita di massa, la società italiana cambia completamente volto. Va bene Pino, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, ovviamente rimaniamo sintonizzati su quelli che saranno i prossimi appuntamenti di mobilitazione, ovviamente anche in base a come andrà la giornata di domani. Per ora ti ringraziamo e ci risentiamo presto. Grazie a voi, ciao, ciao, buona giornata. Ciao. Allora adesso vi lasciamo a un po' di musica dopo questa diretta, poi continuiamo ancora per un pochino sulla buona scuola prima di spostarci a Bologna. La mia generazione sa bene quello che vuole, per noi è tempo di splendere come un Rolex, conti chilometri fatti con queste suole, anche se adesso piove, domani il mio cielo avrà ancora un sole. Nonostante i drammi, gli affanni, gli scazzi, siamo ancora avanti, dei pazzi, dei grandi, nonostante tutto, ancora sui nostri passi, nonostante frasi lasciate perse, le mezze promesse, vivo ancora da rapper. Quando anni fa vi dicevo che non avrei smesso, lo dicevo senza capirne veramente il senso. Dentro dal fondo, dal centro, dall'origine di un mondo che ha barattato regole rigide, paga il conto come un senza tetto che vive in strada ma in confronto a tutti vive come un principe. Le rivincite avute me le sono godute, ma le amicizie concluse sono fottute per sempre dalla parte di chi posti lì chiude la realtà. E diamo anche qualche aggiornamento rispetto a domande che arrivano qui al 346-667-3263. Confermiamo che questa mattina sono stati eseguiti due sgomberi, uno è interessato all'occupazione di via Soana. Durante l'informazione è stato fatto un collegamento, quindi aggiornamenti erano stati dati in questo senso. Non abbiamo più ricevuto chiamate o news per il momento, quindi se ne arrivassero ovviamente le daremo tempestivamente, però appunto ne hanno parlato prima durante l'info. L'altro sgombero invece che leggiamo adesso dalle pagine online della Stampa e della Repubblica di Torino è che è stato sgomberato anche la palazzina di Via Pinelli, che era stata occupata da Maurizio Marrone e i suoi soci di Fratelli Tricolore, che ovviamente si preoccupano del diritto alla casa solo quando questo riguarda gli italiani, con questi slogan appunto beceramente razzisti. E appunto la notizia è data in maniera abbastanza breve. Interessante che insomma sia la Stampa che Repubblica tentennino un po' nel parlare del coinvolgimento di Fratelli d'Italia in questa occupazione, dicendo che si parlava appunto di un sostegno forse di Soccorso Tricolore, quando la roba era stata sbandierata a destra e a manca sia da Maurizio Marrone che dagli altri del suo partito. Insomma, vedremo un po' anche cosa avranno da dire, visto che nessuno di loro col culo comodamente al caldo in Piazza Palazzo di Città si preoccupa della questione abitativa e non ha mai detto una parola contro i tanti sgomberi che ci sono stati in questi mesi. Vedremo. Adesso attendiamo insomma le lagne invece di fronte allo sgombero di quest'oggi. Questi insomma gli ultimi aggiornamenti che abbiamo, se appunto ne arriveranno di nuovi li daremo al più presto. Le porte chiuse in faccia, provaci tu a tenere in piedi la faccenda. Quando il lato scuro ti fa buio e ti annienta, diceva rappresenta, rappresenta. Adesso è giù col padre in azienda. Chi fa volare il porco di santa pazienza, ma si impari a vivere di rabbia, non puoi starne senza. Generazione di guerrieri, domani come ieri. Le mani nei cieli, gli sguardi leggeri. Dobbiamo rimparare a goderci la vita, restare in bilico fino a fine partita. Voi là fuori non chiedetemi chi sono adesso, sono il segreto del vostro successo. La mia generazione sa bene quello che vuole, per noi è tempo di splendere come un Rolex, con dei chilometri fatti con queste suole. Anche se adesso piove, domani il mio cielo avrà ancora un sole. Nonostante i drammi, gli affanni, gli scazzi, siamo ancora avanti, dei pazzi, dei grandi. Nonostante tutto, ancora sui nostri passi, nonostante gli altri, sempre che hanno le fasi. Con le spalle un angolo del mio quartiere, salvo quello che la gente non vuole farmi vedere. Arciere contro nostalgie e barricadere, tiro freccia alle certezze, qui il match è proprio farle cadere. Certi giorni dico vado, in altri mi sento un capo, ma poi ho i tratti somatici di uno schiavo. Quando non sai smettere inizia la dipendenza, ad ogni falsa partenza si ricomincia da capo. Non volevo fare quello colto, del rap per tirarsi un colpo, è facile farsi mollare il colpo. Senza protezioni, nudo, ci ho messo il mio volto, io contro tutti e solo nel mio solco. Tutto in ciò che scrivo come un testamento, sul mente giù la testa, a tempo, dagli anni di qui la festa, con i bini, Kangol di resta dentro, come una scossa di attestamento. Non avessi pensato fuori dal gruppo, ed avessi sfruttato il trend del momento, vi sarei stato più simpatico e col trucco, farei parte del vostro assembramento. M'ho scelto di non essere confuso col tutto, nel piano regolatore del vostro accentramento, a mente vuota ruoto il bastone come nel kendo, nessuno si dimenticherà cosa sto facendo. La mia generazione sa bene quello che vuole, per noi è tempo di splendere come un Rolex, con dei chilometri fatti con queste suole. Anche se adesso piove, domani il mio cielo avrà ancora un sole. Nonostante i drammi, gli affanni, gli scazzi, siamo ancora avanti, dei pazzi, dei grandi. Nonostante tutto, ancora sui nostri passi, nonostante gli altri, sempre gemone bassi. Yaman, Centro Click Silo. Questa va ai DJ e agli MCs, abuso duro, fanno in culo al mainstream, e magazine, notizie flash, i rap muoio cash, a nord, sud, ovest, est, non supporre che col sudore che ho versato in passato anch'io, ci avevo guadagnato da Dio, avere mani, mani per le mani, magari domani, oggi seguo vani ideali, ma i reali problemi sono pieni di debiti e crediti, per cui mettiti in gioco, con due lire o astieniti, se non sei pronto di investire, imponi il tuo stile, parti dalle tue parti, dove scappi ad imbalzarti, parti dallo zero se vuoi arrivare a cento, l'obiettivo primo, dedicato a chi sfrutta il suo talento, dedicato a chi non butta via il suo tempo, dedicato a chi sta e lo dimostra, la città è nostra, dedicato a chi vive ogni secondo, dedicato a chi sa conquistare il mondo, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, temerari tra i binari, negli scali devastano più treni dei disastri ferroviari, incastri gli stili che si muovono, nomi sui vagoni come liriche al microfono, non possono fermare tutti, per quanto ti metti di impegno lo spegni un incendio con due sputi, lo sceriffo vuole nome e l'indirizzo di ogni tizio che bombarda e da un palo a chi parla, paura nessuna, sta cultura è radicata nella strada, peste che dilaga, teste testate, bestie bastate, menti mentecate per far cazzate, esistenze complesse, compromesse, messe in gioco da scommesse feste, poco di cui essere certi, ma se cerchi sti selvaggi, sai dove trovarci, sospiro di Treviso, sul palco e sul metallo, è attivo e massivo, e nessuno può fermarlo. Dedicato ai guerrieri della notte, dedicato a chi sfida la sorte, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, vuoi una risposta massiccia, comincia dalla tua provincia, Bad Raps, Bad Bro Clothing, la marca dal cappello ai pantaloni, siamo i volentoni imprenditori con i piedi per terra e la mente aperta, TV, oltre i rigidi limiti minimi, veniamo con le trecce, cervello, cuore, coglioni, siamo i più minchioni eppure siamo i migliori, siamo fuori con la scimmia sulle spalle, caricatori pieni, vieni, non spariamo col piazzale. Dedicato a chi gioca le sue carte, dedicato a chi fa la sua parte, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, dedicato a chi è pronto contro il peggio, dedicato a quelli con cui casseggio, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra. Per tutti quelli regolari, siete tipo 100 cash, Tito da Bucci, Shadow, Mauro Deso, Comi, Mutantilla, Mr. Jack, Sammy BK, Io Solo, Brokey, Super K, Bruno Massi, Zonta, Giardico, Lord Day, Babylon alla Valona, Low Juan, Farai Fior, Sergio, Dario. 11:56 su 105.250 le libere frequenze di Radio Blackout. E andiamo avanti con questo approfondimento lungo, ma ci sembrava necessario anche sulla buona scuola. E diciamo, appunto abbiamo detto un po' a grandi linee che cosa accade rispetto all'aziendalizzazione della scuola pubblica, lo strapotere dei presidi nei confronti di del proprio personale, uno strapotere che appunto spesso magari il preside è una controparte nell'amministrazione, diciamo, della scuola, ma poi di fatto appunto si crea questa figura che dall'alto viene investita di tutte le responsabilità, dal basso deve rendere conto di tutta una serie di cose e quindi sul singolo andrà a ricadere poi la garanzia di garantire una scuola efficiente, una scuola che corrisponda agli standard poi che sono quelli dettati dal governo Renzi, niente di più, niente di meno, in un momento di totale in cui viene vengono tagliate continuamente risorse in cui non si fa nulla perché per migliorare, poi di fatto per cambiare la direzione, anzi. Questo non per dire appunto per fare l'apologia del presa di manager, ma per anche appunto mettere in evidenza come di fatto la frammentazione che si va a creare nel corpo che si muove dentro l'istruzione pubblica è sostanziale, è profonda e soprattutto non può dare niente di buono, perché sappiamo perfettamente che la scuola è una situazione di appunto collettività, collegialità, e la funzione della scuola è anche quella di di insegnare a gli studenti e studentesse di avere la funzione di far stare tutti insieme, di comunque imparare anche a fare squadra, gruppo in una classe, aiutarsi a vicenda. Bene, tutto questo ovviamente non può esistere in una società fortemente competitiva, e tutto questo va abbattuto, e allora tutto questo in effetti la buona scuola si propone di abbattere. Un altro dato abbastanza preoccupante, che forse prima non abbiamo sottolineato in maniera abbastanza forte, è che non solo, appunto, un altro delle tendenze inaugurate da svariati governi, perché ricordiamoci comunque che appunto l'Italia che cambia verso altro non fa che andare a approfondire i nodi di quelle che sono state dalla riforma Berlinguer, passando per la Moratti, Fioroni e Gelmini, quindi di nuovo non c'è niente, c'è solo il compimento di quello che poi da Berlinguer si era inaugurato. E appunto il sostegno verso le scuole paritarie. Allora, perché diventa particolarmente tragica come questa situazione in Italia? Non solo per appunto per l'evidente insufficienza di garanzie rispetto alla possibilità di tutti e tutte di andare a scuola, ma anche perché le paritarie in Italia sono principalmente scuole cattoliche, quindi sostanzialmente stiamo appunto il partito della nazione sta celebrando i luoghi del proprio culto e quindi anche della propria formazione, cioè non possiamo appunto non possiamo far finta che ci sia una pluralità anche solo di scuole paritarie. Ora appunto lungi da noi difendere il fatto che se fossero di varia natura allora avrebbe senso finanziarle, continua a non avere senso finanziarle, continua a essere la scuola pubblica quella che ha bisogno di un intervento sostanziale, ma certo è che è ancora più preoccupante la situazione dal momento in cui le scuole paritarie in Italia sono istituti cattolici dalla A alla Z praticamente. E allora in un clima di difficile da andare a cementare l'influenza religiosa sulle giovani menti, bene, ecco, è un piano veramente che va sventato nell'immediato. A proposito di contributi appunto sulla questione della buona scuola, andiamo a leggere brevemente un ultimo articolo, questo invece è comparso su Euronomade nei giorni scorsi, si intitola in maniera abbastanza chiara appunto la questione della buona scuola, che in realtà per una parte abbastanza consistente dell'articolo ripercorre un po' la cronologia di quella che è stata l'opposizione a questa riforma, ma che apre con alcune considerazioni interessanti anche su quella che insomma la gestione mediatica dei conflitti dell'opposizione al governo Renzi e anche appunto la reazione del governo Renzi stesso che sembra non ammettere contestazioni, e l'abbiamo visto insomma in questi ultimi giorni con le manganellate che sono volate a Bologna, ma non solo. E tra l'altro a questo proposito è uscito anche un interessante editoriale di Bascetta oggi sul Manifesto che commenta che è tornato il diritto di lesa maestà proprio in relazione a questo atteggiamento del governo Renzi. Ma appunto in riferimento alla buona scuola, interessante questo episodio che viene citato in apertura di questo articolo di Euronomade, che dice che la responsabile scuola del PD, Francesca Puglisi, si sarebbe lamentata per un servizio del TG1 di Minzolini che aveva mostrato le immagini uno dei cortei che hanno riempito le piazze italiane durante l'autunno e non solo, contro la buona scuola, dicendo che si trattava di un capolavoro di mistificazione della realtà e di propaganda di parte. Al di là del fatto che insomma tacciano il TG1 di essere dalla chiaramente parte, la redazione di compagni, la redazione TG1. Notoriamente una redazione di compagni, ma insomma, quindi questo già dà un po' l'idea del delirio che affligge il Partito Democratico. Ma tra l'altro è interessante perché poi il TG1 in questo caso in un capolavoro di par condicio si era premurato anche poi di mostrare invece la tristissima immagine di uno sparuto gruppo di supporters della riforma che in quei giorni invece erano scesi in piazza per difendere l'operato del Partito Democratico e il DDL della buona scuola. Però evidentemente appunto alla Puglisi questo non è andato giù e dice che invece non ci sarebbe niente da manifestare, ma addirittura che bisognerebbe ringraziare insomma per questo intervento del Partito Democratico in materia di scuola. E l'altro spunto interessante insomma che esce dall'articolo è che per quanto appunto questa riforma, come abbiamo detto finora, si inserisca in perfetta continuità con i provvedimenti degli scorsi anni, coerentemente insomma con quella che è un po' la strategia comunicativa del governo Renzi, non ha parlato esplicitamente di tagli, ma ha usato come primo scudo protettivo insomma quando si iniziava a parlare di questa riforma la famosa questione dell'assunzione dei 150.000 precari, che di fatto poi nascondeva tagli esattamente come è stato per gli anni scorsi, ma che appunto cercava un po' di ingraziarsi una parte del paese con questo con quello che poi si è rivelato a tutti gli effetti essere uno spot pubblicitario e niente di più. E appunto l'articolo commenta anche questo aspetto e rispetto invece alla copertura mediatica ricorda come invece fosse lo stesso PD che quando invece c'erano decine di migliaia di studenti a riempire le strade contro la riforma Gelmini, il PD si lagnava appunto che non veniva dato abbastanza spazio alle mobilitazioni e che il governo Berlusconi insomma non dava ascolto alle istanze dell'opposizione, ed ecco lì che qualche anno dopo insomma fanno esattamente lo stesso, si tappano le orecchie di fronte a chi insomma a chi si oppone, a chi osa levare qualche voce contro questa riforma, insomma non si fanno nessuno scrupolo, anzi a mettere di mezzo anche qualche manganello. Quindi insomma questi gli spunti più interessanti che ci sembrava di poter trovare in questo articolo di Euronomade, che appunto è molto lungo, quindi se ve lo volete leggere per intero potete facilmente trovarlo online. Sì, andiamo avanti allora con un breve stacco musicale mentre ci prepariamo per fornirvi gli aggiornamenti di cui parlavamo in apertura di puntata da Bologna. Sottolineo solo un virgolettato di questo articolo di Euronomade che appunto secondo me sintetizza, è proprio diciamo esattamente quello che diceva Francesca in maniera un po' più approfondita, ovvero che con il PD non si può non essere d'accordo, al massimo si può non aver capito in questo periodo. Quindi quanto pare non abbiamo capito in effetti in che modo la buona scuola possa farci un favore, non abbiamo capito come il Job Act possa essere un qualcosa che ci faccia gioire, non abbiamo capito come Expo possa essere un'occasione per l'Italia, insomma in effetti non abbiamo capito un cazzo. E nel frattempo un ascoltatore ci ha mandato un SMS che esula rispetto a questa questione della buona scuola. Ci scrive sulla stampa di oggi un articolo su sbirri francesi assolti e un peana a Marine Le Pen. Su inserto della Repubblica di venerdì, articolo sulla nipote Marion. Invidiosi Joe Panther. Sì, insomma, la notizia è quella che si è diffusa ieri, appunto, della soluzione dei poliziotti che 10 anni fa, nel 2005, uccisero due due ragazzi delle, insomma, portarono alla morte di due ragazzi durante un inseguimento nelle banlieue, che fu quello che poi diede vita, insomma, alla, appunto, alla sollevazione di quel periodo in molte periferie francesi. Ieri appunto sono stati assolti. In seguito alla notizia della sentenza ci sono stati i primi scontri nella cittadina dei due ragazzi morti. Vedremo insomma ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ma questo ci dà un assist per renderci, diciamo, per dare per dare alle sentenze della grande Corte Costituzionale Europea il giusto luogo, ovvero appunto un fanalino di coda di valutazioni che altri facevano da tempo, e mi riferisco alla sentenza, diciamo, rispetto all'Italia e alla tortura. Ecco, vale così tanto che non solo appunto la polizia continua a poter diciamo a esercitare violenza in maniera indiscriminata nei confronti di chi manifesta, di chi si auto-organizza, ma proprio perché in teoria lo stesso organo ha decretato che dopo 3 anni di servizio nella pubblica amministrazione bisogna per forza essere assunti. Ecco, questa è la buona scuola, che assume dopo 3 anni, no, non assume neanche i precari che aveva promesso. Quindi diciamo l'Europa è lontanissima, nonostante, e non solo per questioni di delocalizzazione degli organi in cui si decide, quindi del fatto che non ospitiamo il Parlamento Europeo, ma questa Europa verso cui tendere sappiamo benissimo che non garantisce i diritti di nessuno, e che soprattutto anche quando prova a farlo ha un'efficacia veramente pari a zero. È arrivata nel frattempo una telefonata. Sì, abbiamo un cambio di programma. Ci ha chiamato un compagno per riferirci di uno sciopero a sorpresa in corso in un autogrill nei pressi di Expo, ma gli lasciamo subito la parola. Ciao Vincenzo, ci senti? Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori al servizio della radio. Sono qui a un autogrill sulla tangenziale Torino-Milano, vicino a Rho, dove c'è l'Expo. Uno sciopero di un'ora a sorpresa dei lavoratori di questo autogrill che chiedono il rinnovo del contratto. Ma vi faccio vedere subito il responsabile del sindacato, che vi spiegherà meglio le ragioni della protesta. Perfetto, grazie. Da 2 anni è scaduto il contratto del turismo e l'associazione SIPE, che è l'associazione che raggruppa la ristorazione veloce, ovvero autogrill, McDonald's, MyChef, sostanzialmente tutte le catene di ristorazione, non vuole riprendere la trattativa. Per questo motivo Fincams, Fisascat e Wiltux di Milano hanno deciso, dopo lo sciopero nazionale del 15 di aprile, di proclamare su tutto il territorio degli scioperi articolati, cioè le singole RSA o RSU dei punti vendita dichiarano ore di sciopero nei momenti di maggior attività. In questo caso questa è la terza che stiamo facendo, dopo il McDonald's di Cassano, il McDonald's di San Babila. Oggi siamo sull'autostrada Milano-Torino all'autogrill Rho Sud, dove tutti i lavoratori alle 12, quando è scattato lo sciopero, hanno abbandonato il servizio e è rimasto solo il direttore. Beh, insomma, un aggiornamento sicuramente molto interessante, che segue anche la notizia dello sciopero a sorpresa che c'era stato alcuni giorni fa a McDonald's. Insomma, una modalità di sciopero sicuramente appunto interessante e capace ancora di far male di fronte, insomma, a tutti i tentativi di pacificazione, ma anche di ostacolo degli scioperi che abbiamo visto in atto in questi ultimi mesi. Penso insomma anche al tentativo, allo slittamento delle prove invalsi di un giorno per cercare di ostacolare il boicottaggio. Quindi insomma questa pratica dello sciopero a sorpresa sembra invece in grado di mettere realmente in difficoltà, e insomma dalle parole di questo collegamento, ma anche da quanto abbiamo visto a McDonald's, mi sembra che stia ottenendo anche un'adesione insomma piuttosto larga. Quindi sì, se posso dire, il problema è convincere i lavoratori. Non siamo in una fase in cui i lavoratori sono disponibili a lottare, in un momento dopo 8 anni di crisi, dopo una situazione in cui tutte le grandi aziende stanno tagliando i contratti integrativi. È in una situazione per questo in cui a qualunque protesta si risponde con cordoni di celere. È per questo che noi abbiamo pensato, perché quando si fanno gli scioperi generali, cosa succede? O quando abbiamo fatto lo sciopero del turismo, che queste aziende, che sanno in anticipo quando c'è lo sciopero, mandano a sostituire i lavoratori che scioperano, mandano contratti a tempo determinato, voucher e altri lavoratori che non possono dire di no. Allora abbiamo ritenuto unitariamente come organizzazione sindacale che sia per colpire l'azienda, ma soprattutto per far diventare i lavoratori protagonisti di quello che è un diritto sancito dalla Costituzione, il diritto di sciopero, devono essere loro, devono essere i delegati a parlare coi colleghi e a convincerli ad aderire, perché l'importante, secondo noi, è sì fare grosse manifestazioni e fare e riempire le piazze, ma la cosa più importante è svuotare i luoghi di lavoro. Questa modalità di sciopero ci consente di verificare se la rabbia che i lavoratori e i problemi che hanno i lavoratori si trasformano poi realmente in volontà di cambiare. Fare scioperi articolati significa sia per le rappresentanze sindacali ma per gli stessi lavoratori metterci la faccia. Noi pensiamo che sia necessario agire così se vogliamo tentare ovviamente di cambiare una situazione che non piace a noi, non piace ai lavoratori e pensiamo non piaccia neanche a questo paese. Bene, grazie mille. Noi rimaniamo assolutamente disponibili a qualunque aggiornamento, i contatti della radio li ripetiamo, poi appunto li avete, quindi sicuramente le libere frequenze di Radio Blackout rimangono sintonizzate sulla lotta dei lavoratori dell'autogrill sulla Torino-Milano. E assolutamente ci uniamo anche a un po' alla constatazione di efficacia appunto di questa modalità e anche appunto un po' della difficoltà della fase, però sicuramente fa piacere, fa sorridere e dà ottimismo il fatto che appena poco tempo fa quella che poteva essere comunque uno sciopero importante come quello dei trasporti a Milano era stato subito affossato e sedato anche in nome del fatto che era stato annunciato, come tu dicevi, poi la controparte ha varie modi per spegnere le stanze dei lavoratori. Bene, allora si impara in fretta e si va avanti con la lotta. Bene, mi sa che abbiamo perso il collegamento con il presentatore sindacale, abbiamo di nuovo Vincenzo che ci ha avvertito insomma di quanto stava accadendo. Direi che niente, ti ringraziamo per averci allertato. Se ci fossero aggiornamenti ovviamente i microfoni della radio rimangono aperti per ora. Grazie, insomma, un saluto solidale a tutti i lavoratori e le lavoratrici. Un saluto a voi, buona trasmissione. Ciao, grazie mille. Ciao. Ma il fine stima senza casa e che ogni scombro sarà una barricata. Qualcuno il piano casa, i Renzi lupi. Ad ogni scombro sarà una barricata. Ma il fine stima senza casa, occupazione abitativa. E se la casa è un diritto, l'affitto una rapina. Ad ogni scombro sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa. E se la casa è un diritto, l'affitto una rapina. La casa è un diritto in nome della ragione. Poi lo trovo scritto anche sulla Costituzione. Non resto per strada, occupo una casa. Occupare è giusto e solo la lotta paga. Anche se lavori qui l'affitto è una rapina. Ci siamo organizzati, occupazione abitativa. Non serve ci diciamo a fine mese non si arriva. Serve che ci organizziamo per creare l'alternativa. Siamo l'alternativa, la risposta alla deriva democratica. Che in pratica ci tassa anche la vita. Non ci salverà lo Stato e la sua azione repressiva. Oh, prendi la mira, popoli meticci, fuori dagli impicci, occupo gli sfitti, fuga dagli affitti, contro i tuoi profitti che ci mandano gli sfratti, ci volete zitti ma ci avrete più compatti. Ad ogni scombro sarà una barricata, ma più nessuno senza casa, occupazione abitativa, e se la casa è un diritto l'affitto una rapina. Ad ogni scombro sarà una barricata,

da qualche parte in terre morte la sorgente. Ho la mente solcata di impronte, vorrei calcarle nuovamente, ma sono svanite nel presente. Guarda attraverso me stesso, trapassato da una ferita. La vita fuma una siga infinita, traccia futuri a matita. Sconfiggi un uomo per essere un uomo, il senso della sfida. Oppure avrei perso, missione fallita. Un occhio e mezzo più il terzo e rivedo ciò che ho vissuto. Battuto ma non sto muto, e mi alzerò ogni volta che sarò caduto. Questo perché è stato sconfitto, anch'io di fatto raccapo da flashback contundenti che mi hanno trafitto. Accusato di paure immaginarie, testimone marginale, ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. Sorseggio calici pieni di tristezza e piango occhi come lacrime di incredibile compattezza. Ho già vissuto il passato, da voi chiamato futuro. Tra qualche secolo ho visto il cielo spalancarsi e tracciarsi nell'oscuro. Un ponte d'ombre sospeso come il fiato, pochi sono al sicuro, perché avrà il diritto di attraversarlo solo che ha un cuore puro. Ma i figli infami otterranno di essere salvi, recitando a mani giunte salmi per nascondere il destino marchiato sui palmi, non potendolo più attraversare. Il bene dovrà diventare male, come l'acqua di un fiume per continuare deve diventare mare. A volte mi sento come se la mia fantasia fosse in lutto. Ogni ideale distrutto ed il brutto è che negli occhi ho lo sguardo di chi a vent'anni ha visto tutto. Ma perdendo una lacrima butto a terra questo senso corrotto. Una volta un uomo mi ha chiesto da dove vengo. Nato in mezzo alla merda, ma un fiore ha le radici nel fango, e nel fango i miei ricordi verranno trovati, conservati per chi percorre sentieri sbagliati. Vorrei ricordare ciò che ormai ho dimenticato. Vorrei dimenticare ciò che da quel giorno non ho più scordato. Ma ora che vivo il passato, il futuro è l'ignoto. A me restano soltanto ricordi per il mio album da voto. Varioni bruciano anche i neuroni. Intanto tu esci là fuori e prendi lezioni. Sclero severo, che tempo film in Technicolor. Allora io zero, che resto in bianco e nero. Prigioniero di una foto con sfondo il vuoto. Ma il gioco ha un significato mascherato come una orto. Chi non lo trova nel mentre si arrende e si spenge da solo la gente. Guardando il cielo di notte vede una stella cadente. Io cerco di colpire al plesso il mio falso riflesso, prima che lui esca dallo specchio. A un passo dal collasso, sta solo a me decidere. Ma io del genere vivo per vivere. Domani cosa può succedere? Hanno rilevato più volte il mio decesso in epoche di cui non ho il possesso, poiché ciò che è successo non mi ha concesso che un riflesso di ciò che ho visto. Assisto a me stesso, genuflesso, i piedi di Cristo. Ma solo adesso capisco, non esisto se non rubo al presente. Tempo da vivere come un padre che sul letto di morte insegna al figlio a ridere. Ma il mio mi rinnegò rendendo mia madre la mia famiglia. A volte mi chiedo se avrebbe avuto il coraggio di abbandonare una figlia. Non sbatto ciglia finché avrò ricordi imprigionati nelle pupille. Avrò nella penna lacrime che il passato mi ha rovesciato sulla pelle, trascinandomi sulle braccia. Piango, non guardarmi e taci. Neanche una donna cancella le cicatrici solcate dalla via crucis. Anche se il vento sfogliandomi i capelli scrive di dimenticare, come al sole che nel tramonto sdrai i raggi per diventare mare. Per attacco. l'attitudine, la vita come un turbine, l'appartenenza incisa con il cerchio e con il fulmine, marcato dagli impicci, allergico ai feticci, tanti bei discorsi e poi si vendono per due spicci, fatti non capricci, gente vera non posticci, se giochi con il fuoco poi finisci nei pasticci, meticci, ribelli, artisti, ladri in questo mondo sono, anime dannate giù dal basso fondo, non mi nascondo, ok? Siamo in diretta, cronaca di strada dalla parte della teppa, V4 Vendetta, un simbolo che infetta, segnali discontinui in questa trappola perfetta, saetta d'energia umana, fuori dalla tana con il coprifuoco, sei un player? Allora fai il tuo gioco, guardati la schiena se conosci la cancrena che avvelena questa arena, supporta la tua scena. Noi divisi in bande siamo il doppio se ci uniamo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. Il futuro è nostro, racconta quanti siamo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. Quel giorno sarà guardie contro bande di reietti. La strada è in quarantena, troppi a farsi troppa dolci, troppo, troppi a farsi pochi sopra il gioco. Bene quanto valgo del rispetto della strada. Là fuori è Torquemada, siamo tutti di passaggio. Ricorda che il problema è l'atterraggio. La pena è il contrappasso, l'ipoteca sul domani. Dall'alto verso il basso, conto tutti e 30 i piani. Con gli ultimi moicani, lontano dagli scami. Signor K con le combo sul tatami. Coi ragazzi cattivi che fanno a botte con i congiuntivi. Che nella merda stanno a galla come mezzi anfibi. No signore, schiaccio sul motore l'acceleratore. Toro loco con il batticuore. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. Noi divisi in bande siamo il doppio se ci uniamo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. Il futuro è nostro, racconta quanti siamo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. 20.000 e mezzo, solo 20.000 e mezzo. Quel giorno sarà guardie contro bande di reietti. Allora, 12:28, purtroppo non riusciamo a metterci in collegamento con i compagni di Bologna per gli aggiornamenti di questa mattina. Ve li diciamo comunque appunto brevemente. Quest'oggi la Digos bolognese si è presentata sotto l'occupazione dell'ex Telecom, un grosso palazzo che da alcuni mesi è stato occupato da decine e decine di famiglie, migranti e non solo. Appunto è arrivata alle porte dell'ex Telecom per notificare un provvedimento di sequestro dell'immobile. Insomma, la presenza della Digos e la provocazione che portava con sé è stata respinta, quindi per ora la situazione è tranquilla, non si è trattato di un tentativo di sgombero, questo insomma è quello che ci tenevano a riferire compagni di Bologna quando li abbiamo sentiti prima. Chiaro è che insomma l'attenzione nei prossimi giorni dovrà rimanere alta a fronte degli avvenimenti di questa mattina. E allora, siccome siamo in chiusura, andiamo come di consueto a leggere qualche appuntamento prima di lasciare le frequenze di Radio Blackout. Partiamo dalla giornata di oggi, martedì 19 maggio, confermata come ogni settimana la cena all'asilo occupato Benefit Radio Blackout ai Fornelli, i vostri DJ preferiti, appuntamento dalle 20:30 in via Alessandria 12, cena a tema sapori di Riot. Mentre per quanto riguarda la giornata di domani, al Mezcal occupato Parco della Certosa Irreale, alle ore 19 per cena Bella Vita, e a seguire alle ore 21 racconti dal Kurdistan e da Kobane. E andiamo avanti, arriviamo a giovedì 21, CSA Murazzi, Big Easy Project con Pacello, DJ Vale, DJ Ciaffo from Persiana Jones, start at ore 23. E sempre giovedì sera in C1, l'aula occupata dai Campus Invaders, si festeggerà un anno di occupazione, un anno di spazi autogestiti e ripresi dagli studenti nel campus. Nell'astronave campus, quindi un'altra invasione, un'altra serata insieme. E ci sarà insomma musica un po' per tutti i gusti, si partirà con un po' di pop, poi si passerà a DJ set e altro ancora, quindi l'invito a partecipare e a festeggiare assieme insomma questo questi 12 mesi di occupazione e iniziative. Arrivando invece al fine settimana, ricordiamo l'appuntamento di sabato pomeriggio, il gruppo cosiddetto delle Sentinelle in Piedi, che da alcuni mesi si presenta periodicamente nelle piazze italiane a pregare, insomma, in tutela dei valori tradizionali della famiglia, insomma, le solite cose che sentiamo. Scusate, da anni, deve essere l'allergia alle sentinelle a parlarne. Per questo sabato appunto è prevista di nuovo una giornata nazionale in cui saranno presenti in diverse città italiane in contemporanea. Per quanto riguarda Torino è già stato lanciato insomma un appuntamento di mobilitazione, il loro ritrovo sarà alle 17 in Piazza della Gran Madre, è stato dato un appuntamento per insomma perlomeno informare su chi sia veramente questa gente, cosa si nasconda appunto di fronte a questa pretesa manifestazione pacifica e silenziosa, che sarà alle 16 al ponte al ponte di Piazza Vittorio all'angolo concorso Casale. Poi ognuno insomma sarà libero di sbizzarrirsi nel portare la propria contestazione a questi cari signori. Mentre per la serata lascio la parola a Eddie. Sì, si andrà sempre una settimana di festeggiamenti per quel che riguarda percorsi di auto-organizzazione in città, ed il sabato si festeggia anche il compleanno della Cavallerizza, una giornata sfaccettata, una 24 ore, una sorta di appunto lunga esperienza di quelle, una lunga percorso diciamo di quelle che sono tante delle anime che da un anno ormai animano la Cavallerizza. E allora si comincerà alle 11 da Piazza Castello, una visita guidata verso la Cavallerizza. Ricordiamo che appunto la Cavallerizza ha un valore storico artistico immenso, e che sicuramente, se aspettiamo il comune di Torino che c'è, facciamo in tempo a vederla cadere a pezzi, mentre l'occupazione ormai da un anno appunto organizza visite guidate per rendere partecipe tutta la città e chiunque ne abbia voglia di quella che è uno tra i nostri tesori più belli per quel che riguarda il territorio. Quindi ci si vede diciamo sui porti in Piazza Castello alle 11 per andare verso la Cavallerizza, dove dalle 10 già ci sarà il mercatino dell'artigianato autoprodotto e genuino clandestino. Dalle 15 alle 17 dibattito sui beni comuni, dalle 17.30 alle 19 agorà, presentazione della chiamata all'azione, il nuovo modello economico dei gruppi di lavoro e dell'assemblea domenicale, quindi un po' di quella che è la vita della Cavallerizza, come viene amministrata, come vengono prese le decisioni, quali sono i luoghi in cui ci si confronta e si dibatte. Andremo avanti dalle 19.45 a mezzanotte con una fusione tra elettronica e post-rock strumentale: Marcello Giannini alla chitarra, Ron Grieco al basso, Jack D'Amico alla batteria, Marco Castaldo e Salvatore Rainone. Da mezzanotte in poi, Ride the White Horse, Alessandro Gambo, Alessandro Nigro, Andrea Valletti, Noi Cyclops, Henry Amadi. E quindi anche il cortile invece vedrà un'altra postazione di eventi, dallo yoga alla capoeira un reading, poi a un DJ set. Insomma, come da un anno l'assemblea porta avanti in maniera egregia, la Cavallerizza anche questo sabato è piena di eventi e vivrà. Finiamo con gli ultimi appuntamenti del weekend, ritornando a quanto ci dice l'agenda di Blackout. Per quanto riguarda la serata di venerdì, per chi ama l'elettronica, appuntamento al CSA Murazzi a partire dalle ore 23 con We Play the Music We Love, mentre al Paso occupato ci sarà musica dal vivo con i Rauchers, spero di aver letto giusto, i Culto del Cargo e i Diritto, appuntamento in via Passo Buole 47. Mentre per quanto riguarda sabato Sempre al CSA Murazzi si passa alle sonorità reg con Ivan Chiglia Sound, l'appuntamento è sempre dalle ore 23. E su questo noi insomma siamo giunti un po' agli sgoccioli, quindi magari vi lasciamo un ultimo pezzo e poi vi salutiamo prima dell'info. Fuori controllo come schegge, fuori dalla legge, fuori dal copione d'una fiction che non regge. Il gregge volge sordo al precipizio, il lupo paga il prezzo del supplizio. Perde il pelo ma non perde il vizio, a comizio dalla rupe. Chiama i lupi e le sue lupe, facce cupe che si scrutano nel buio, nel garbuglio delle voci tra gli audaci che scompaiono. Nel pantano dove gli angeli si infangano, si infrangono. Tiepide illusioni contro l'ordine dei cloni, contro veti, costrizioni, le opinioni sono carta straccia. Ho solo queste braccia, di fronte ad uno sgherro che mi punta il ferro in faccia. Se taccia la mia macchina, conosco già la tattica, schedato dagli sbirri per le idee che metto in pratica. La mia grammatica è materia d'ascensore, materiale conduttore, tramando l'epopea di un disertore. 24 su 24 ore, la rabbia corre dentro le mie vene come plasma. Testa bassa nel marasma, come il popolo di Algeri nella casba. La guerra di un esercito fantasma. Jack e lei, fatti sotto dopo il gong. Jack e lei, una botta come il pong. Jack e lei, sottoterra c'è il Viet Cong. Alta. Vengo dalla zona calda, lontano dalle chiacchiere, le luci e la ribalta, lontano dalla merda, mi guardo dagli infami e resto allerta, resto rintanato giù in coperta, è l'offerta, la domanda, il mercato che comanda, la mia banda dalla terra di nessuno, nel tempo del digiuno, nel tempio del consumo, guardo fisso il cielo dall'abisso di Nettuno. Punto uno, non avrai nessun rimorso, se prendi posizione la questione è dargli corso, il morso che diventa presa, è il palmo che soppesa, la dignità di un uomo pure quando sta in difesa. Fanculo la tua chiesa, è d'oro come il manto dell'agnello, è rossa come il sangue sulla lama del coltello. D'accordo che il mio prossimo è un fratello, ma non porgo l'altra guancia se di fronte a un manganello. Tra incudine e martello, l'amore ed il disprezzo, ho idee pericolose e ne conosco il prezzo. Resto in mezzo, ho un piano sotto banco, in guerra con il branco dei gorilla col mio fianco. Jack e lei, fatti sotto dopo il gong. Jack e lei, è una botta come il pong. Jack e lei, sotto terra c'è il Viet Cong. Jack e lei, prova a battere King Kong. Jack e lei, fatti sotto dopo il gong. Jack e lei, è una botta come il pong. Jack e lei, sotto terra c'è il Viet Cong. Jack e lei, prova a battere King Kong. E allora 12:39, Parole Ribelli per con nostro sommo dispiacere giunge alla fine. Vi dà appuntamento a martedì prossimo. Un saluto a tutti e tutte da Eddie e vi lasciamo con un'ultima hit, un po' Roots. Un saluto anche da Francesca, ovviamente rimanete sintonizzati su Radio Blackout, tra pochi minuti il GR, poi Cattivi Pensieri, per ora un buon ascolto con quest'ultimo pezzo.